Certo, ci rendiamo conto della frustrazione che colpisce gli uomini in servizio di ordine pubblico, ma non è col farla pagare al primo che passa, col pestaggio feroce di quello che hai la fortuna di cogliere isolato fuori dal branco, che si sana la situazione. Insomma, in cella dopo il pestaggio intervenga il governo anche sul Corriere della Sera. Sono soprattutto i radicali, l'Italia dei Valori, che si stanno mobilitando per questo Stefano Gugliotta. C'è anche un'altra vicenda apparsa ieri a Chi l'ha visto, sempre avvenuta dopo quella partita. Una persona che è stata arrestata dalla polizia, poi ha cercato di fuggire e si è vista una macchina per la verità una macchina civile, che lo ha investito per fermarne la fuga, per stopparlo, insomma. Chi c'era su quella macchina, visto che era una zona diciamo dove operava la polizia, era una macchina civile ma su cui c'erano agenti di polizia, questo è quello che ci si chiede. Due citazioni finali. Io, incredibilmente, lei lo respinge, le dà fuoco, e questa è una vicenda purtroppo che avviene spesso. 56 anni, Marco Langellotti ha dato fuoco a una ragazza che lo aveva respinto. La vicenda incredibile è questa. Volete sapere quante condanne aveva, come abbiamo sentito anche in GR24? 26 condanne passate in giudicato, tra cui stupro per due volte, una nei confronti di una minorenne, rapina, aggressione, estorsione, minacce. 26 volte condannato, libero, e ha dato fuoco a due ragazze. Ci fermiamo qui. Il vulcano islandese Eyjafjallajökull rischia di farci chiudere nuovi scali. C'è una precauzione, troppa precauzione, che ne pensate? Stiamo esagerando? Radio24.it. Siamo alle 8:18 minuti, è il momento di Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Anche se non si sbadiglia, non si è capito bene, puoi scandirlo un po' meglio il mio nome? Perché devo prepararmi ad un'altra pronuncia, quella che ci ha appassionato tanto le settimane scorse. Il vulcano islandese, ma mi concentro e poi dopo lo riprendiamo. Non adesso. Allora, vado al mio argomento per rasserenare i nostri ascoltatori, già ampiamente rasserenati dalle prestazioni della borsa ieri eccezionali. Ovviamente il piano di stabilizzazione dell'Eurozona ha fatto volare tutti i listini internazionali, e quindi cosa vogliamo fare stamattina per deprimerli di nuovo? Aprire la giornata parlando di fisco. E allora cerchiamo di dolcificare però al massimo la nostra trasmissione. Cominciamo intanto con un po' di scadenze. Vi ricordo a tutti i lavoratori dipendenti e ai pensionati che devono consegnare il 7:30 il 31 maggio. Entro il 31 maggio la consegna va fatta ad un CAF, cioè a un centro di assistenza fiscale, oppure ad un intermediario autorizzato, commercialista, ragioniere o consulente del lavoro. Se però proprio le scadenze non vi entrano in testa, allora stamattina vi spiego come potete fare ad avere un rapporto un po' più equilibrato con le scadenze fiscali. Per esempio, potete seguire, se capita in questi giorni nella vostra città, l'iniziativa Il Fisco Mette le Ruote, il camper itinerante dell'Agenzia delle Entrate che gira tutta Italia e si mette così a disposizione, mette a disposizione un bel gruppo di consulenti, ovviamente li mette a disposizione dei contribuenti a caccia di informazioni. Allora, stamattina spieghiamo in cosa consiste questa iniziativa, che non è certo alla prima edizione, con Antonella Gorré, portavoce dell'Agenzia delle Entrate. Dottoressa Gorré, buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, terzo anno mi pare, no? Sì, per il fisco mette le ruote. Sì, siamo al terzo anno, siamo partiti il 5 maggio da Piazza Armerina giù in Sicilia, oggi ci stiamo spostando a Terrasini e concluderemo tutto il nostro viaggio il 12 novembre nel Lazio. Quindi siete partiti con la Sicilia, ma com'è nata questa iniziativa? Io mi ricordo che ne avevamo parlato anche l'anno scorso, intorno al mese di settembre, quindi credo che l'iniziativa fosse già nel suo pieno, e ci aveva ricordato un'altra sua collega che tutto originava da un'attività molto intensa da parte dell'Agenzia delle Entrate di Asti, quindi nel Piemonte. Sì, si ricorda bene, sì, perché nasce nel 2001 proprio ad Asti. I primi anni è stata la direzione regionale del Piemonte che ha portato avanti questa iniziativa e poi, visto che andava molto bene e riscuoteva molto successo tra i cittadini, nel 2008 è stato deciso di organizzarlo a livello nazionale questo tour. L'anno scorso c'è stata ovviamente una particolarità dovuta al terremoto in Abruzzo, perché i primi mesi il camper è stato fermo nei comuni abruzzesi proprio per aiutare, insomma, quei cittadini che infatti che colpiti. Peraltro hanno avuto molte scadenze fiscali sospese, però in esatto. ogni caso non c'era, però serviva per rincuorarli che appunto esatto. erano sospesi, perché le informazioni ovviamente stando nelle tendopoli non arrivavano e quindi abbiamo pensato di fermarci lì. Non c'era sicuramente, come dire, anche la lucidità mentale in quel certo. momento per quelle persone di pensare anche a questo, quindi come dice certo, giustamente lei, settembre siamo ripartiti un po' in giro, ovviamente con meno tappe perché c'è stato un evento eccezionale e quindi abbiamo cambiato il programma in corso d'opera. Come si riconosce il vostro camper, dottoressa Gorré? È un camper dove su c'è un logo dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo messo ovviamente dei manifesti che lo fanno riconoscere e poi ci sono i nostri funzionari fuori, ma di solito quando arriviamo c'è sempre molta curiosità perché ovviamente insomma c'è questo camper con questi disegni, con il logo dell'Agenzia delle Entrate, quindi ci si chiede che cosa state facendo e quindi in sostanza i contribuenti del posto arrivano da voi. Quali sono le domande più ricorrenti che vi vengono fatte? Adesso noi siamo partiti periodo... parlando esatto della scadenza della esatto, dichiarazione dei redditi sì. e poi? Sì, in questo periodo ovviamente assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Molti ci richiedono il duplicato del codice fiscale oppure della tessera sanitaria perché è stata persa. Ah, quindi potete fare direttamente sul posto anche questo servizio? Esatto, eventualmente sì, o questi servizi? È proprio un ufficio mobile, ci sono due postazioni collegate con la nostra anagrafe tributaria e quindi pienamente operative, dove i nostri funzionari, che sono quattro per tappa, si collegano ai terminali e possono fare tutte le operazioni, quindi possono anche inviare la dichiarazione dei redditi oppure da un paio d'anni è possibile anche registrare un contratto di locazione online e aiutiamo le persone che da sole insomma non sono capaci a farlo a casa dal proprio PC a per esempio registrare il contratto di locazione. Mi sento di poter dire che, come dire, potreste anche intensificare un po' questo percorso e magari aumentare il numero delle tappe, perché credo che sia un servizio anche molto importante, qualche volta anche per le persone ovviamente prendersi magari due ore di come dire, permesso dal lavoro per andare ad espletare tutti questi adempimenti burocratici qualche volta è un po' impegnativo e quindi magari un servizio di questo tipo sicuramente risulterà molto utile a tutti coloro che lo utilizzeranno in questo periodo di disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dopo la Sicilia sarete in Calabria fino alla fine di maggio. Qualche altra tappa, dottoressa Gorré, quindi sì, quale sarà il vostro percorso? La prima volta in Basilicata, anche nelle Marche, comunque dopo la Basilicata andiamo in Campania, in Molise, nelle Marche, in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, poi ci fermiamo per il periodo di agosto e poi riprendiamo nel Veneto, percorriamo quindi Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e terminiamo nel Lazio il 12 novembre. Una cosa importante è che noi andiamo nei comuni dove non c'è un ufficio dell'Agenzia infatti delle lì Entrate. Che volevo arrivare per capire anche qual è la copertura territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per chi non sapesse proprio che cosa fa l'Agenzia delle Entrate, dottoressa Gorré, ovviamente magari spiegate anche quello. Perché non è detto che tutti lo sappiano. Sì, ma infatti distribuiamo per esempio anche del nostro materiale, delle guide, degli opuscoli che spiegano sia l'attività dell'Agenzia delle Entrate, che non è soltanto controllo e accertamento, ma è anche assistenza ai contribuenti. Rendiamo note anche quali sono tutte le altre nostre iniziative, perché per esempio c'è il fisco scuola, la nostra iniziativa in cui da un po' di anni andiamo nelle scuole per sensibilizzare i bambini delle scuole elementari e quelle delle scuole medie proprio sul tema del fisco, sull'importanza di pagare il fisco, e cogliamo l'occasione di questo giro del camper per far conoscere tutto quello che facciamo. Benissimo, allora per chi volesse sapere dove siete esattamente, se magari il camper transita nella propria città, possiamo collegarci al sito dell'Agenzia delle Entrate, troviamo il calendario dettagliato delle vostre tappe? Sì, troviamo il calendario dettagliato tranne qualche regione in cui non è ancora indicato il comune, perché la giunta per semplicemente perché il comune deve deliberare ufficialmente il posto dove stare in sostanza. Esatto, però, ecco, quindi no, è importante perché non andate nei capoluoghi di regione o nei capoluoghi di provincia in sostanza, ma cercate anche località più piccole. No, cerchiamo andiamo solo nei comuni dove non c'è un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, proprio per avvicinare il cittadino all'Agenzia delle Entrate. Insomma, perché in ogni provincia comunque un ufficio dell'Agenzia delle Entrate c'è già. Sì, anche nei centri più grandi. Sì. Benissimo, sì. Posso ricordare anche il numero verde dell'Agenzia delle Entrate, l'848 800 444. Telefonando a questo numero anche si possono avere informazioni su questo tour, dottoressa Gorré, oppure sì, un numero che serve ad altro? Si possono avere informazioni sul tour, si possono chiedere informazioni sulle scadenze fiscali, si possono anche effettuare delle operazioni, per esempio si possono ottenere degli sgravi, che ne so, abbiamo ricevuto un avviso di pagamento su una tassa che abbiamo già pagato, si può chiamare l'848 800 444 e chiedere lo sgravio. Benissimo, è anche insomma, un numero operativo. Qualche volta prima di andare direttamente dal commercialista possiamo magari risolvere qualche problema anche da soli. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei. Insomma, quindi ha riaccesi i motori il camper dell'assistenza fiscale. Per tutte le informazioni andate pure sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Alessandro. Eccoci, alle 12. Alle 12 rubo un'inchiesta molto carina che ha fatto ieri il Sole 24 Ore, guida ai piccoli business fatti in casa. Sono sempre molte le opportunità rubare, di realizzare tra le mura domestiche attività che diano luogo ad entrate integrative, ad esempio puoi affittare casa tua per farne un set di un film, magari con George Clooney, quindi... Che è già impegnato, cioè, un mio caro amico che fa questo di lavoro. Quindi... Esatto, magari l'ho intervisto anche io oggi alle 12, che ne sai? Che ne sa? Ciao. Vabbè, ciao. Scopriremo. Allora, di che parliamo noi oggi? Il nostro sondaggio, parliamo di Eyjar Fjallar Jökull. Va, abbastanza semplice. Bah, il vulcano islandese Eyjafjallajökull. Così l'ha detto. L'hai perfezionata. Vabbè, in maniera insomma, chi lo sa, ho studiato l'islandese. Commovente. Allora, direi. Secondo voi c'è un eccesso di precauzione? Stiamo esagerando con questo vulcano e le sue ceneri che stanno chiudendo? Hanno chiuso gran parte degli aeroporti in passato. Sta arrivando ancora la nube, forse chiudono ancora. Che ne sappiamo? Chiudiamo tutto, eccesso di precauzione. E allora le 8:33 minuti, eccoci qua al nostro sondaggio di oggi. Parliamo del nostro amico vulcano islandese che sta tenuto a terra e forse terrà a terra un bel po' di centinaia di migliaia di viaggiatori aerei. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi chiediamo, ma per questo vulcano islandese rischi di nuove chiusure degli scali? Già ci sono state le chiusure, ma non stiamo esagerando. Secondo voi c'è un eccesso di precauzione? Il nostro amico vulcano islandese che è? Eyjar Fjallar Jökull. Oh, facile, no? Eyjar Fjallar Jökull. Saluto Vito Riggio, buongiorno. Presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, l'ENAC, la ringrazio molto perché tra pochi minuti so che è vicino al Santo Padre, al Papa. Sta arrivando, ancora non è arrivato, ma sta per arrivare. Sta arrivando, non le chiederò assolutamente di passarmelo, stia tranquillo. Senta, questo perché il Papa parte intanto a Lisbona, sì. Sì, ma ce la fa, cioè parte nel senso che... Ce la fa perché la nuvola, diciamo, è... piazzata a 6.000 metri di quota, quindi in una fase iniziale del viaggio va sopra e poi entra dalla parte nord del Portogallo che è ancora libera, quindi riesce ad atterrare a Lisbona. Riesce a partire. Senta Presidente, io ho una domanda perché oggi il Corriere della Sera la pone come un'ipotesi. Sì. L'ENAC pare che sia abbastanza, posso dire, usare questo termine forse improprio, stanca insomma di questa gestione di Eurocontrol che gestisce, dice chi può volare, chi non può volare, dice siamo pronti se i ministri ci dicono di sì, ci sganciamo, facciamo tutto in autonomia, controlliamo noi e decidiamo noi, è vero? Sì, a condizione, ho detto, perché che qualcuno, in particolare i francesi che stanno in questo momento utilizzando a quanto pare le mappe di un altro istituto di vulcanologia che non è competente per la zona ma è convenzionato anche egli con l'ICAO, se ci danno queste mappe da cui risulta che la mappatura fatta dai vulcanologi inglesi è, come dire, eccessiva o eccessivamente prudenziale, e noi se abbiamo un altro riferimento altrettanto autorevole possiamo cominciare a valutare. Fin quando non ce l'abbiamo dobbiamo tenerci all'unica fonte che c'è e che è questa appunto che circola di Eurocontrol. Cioè il sospetto anche suo, comunque che si stia un po' esagerando. Io non ho un sospetto, io dico che siccome sono modelli matematici, è chiaro che il computer ti dà quello che ci metti dentro, siccome noi non sappiamo bene cosa viene messo dentro in termini di soprattutto concentrazione delle polveri, è chiaro che se c'è un altro centro altrettanto autorevole che ha un diverso, come dire, esito, e noi quantomeno facciamo una comparazione, dovrebbe farlo anche Eurocontrol a mio modo di vedere, perché la rottura con Eurocontrol è una cosa che io non mi auguro e in ogni caso non possiamo fare noi come autorità dell'aviazione civile. Se tre ministri o quattro o cinque chiedono Eurocontrol un'ulteriore revisione della zona no-fly, vediamo, però deve essere fatto non sulla base di una intuizione, ma sulla base di un dato effettivo. Perché sarebbe una rottura comunque... È molto grave, devo dire, perché molto noi grave. Finora abbiamo lavorato sempre insieme, quindi se dovessimo andare da soli, come già stanno cominciando a fare in parte i francesi, è chiaro che per far questo ci vuole una decisione politica molto forte, insomma. Allora, Presidente Riggio, lei faccia così, tanto non è in preascolto, rimanga con noi, noi la teniamo in linea, se appare la figura del Santo Padre, noi Ubi Maior, insomma, capiremo che lei ci mette giù il telefono e va bene così, insomma, non ci offenderemo, visto che sta arrivando il Papa che parte per Lisbona e ci ha dato una notizia, il Papa parte, ce la fa, la nube ha fatto il miracolo. Allora, ci sta ascoltando Enzo Boschi, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e saluto anche Osvaldo Gammino, che è portavoce delle compagnie aeree dell'aeroporto di Milano. Buongiorno Gammino. Compagnie aeree molto arrabbiate, cioè hanno detto, alcune dice ci hanno fatto perdere miliardi di non so quanto è stata quantificata, no, la perdita delle compagnie aeree infuriate. Tantissimo. Molto alta. Ma perché? Cioè, non è che penso che qualcuno si diverta a tenere giù gli aerei, insomma, a tenerli, a non farli decollare. Se non si fanno decollare, evidentemente ci vuole un po' di prudenza, no? Che facciamo? No, ma per carità del cielo, la prudenza non è mai troppa, considerato che parliamo di far volare milioni di passeggeri. Io concordo con il presidente Riggio che in effetti basarsi solo su un certo tipo di mappe forse non ci garantisce, magari se cominciamo a valutare tutte le mappe probabilmente riusciamo a trovare una soluzione e accontentiamo quei vettori che stanno reclamando il diritto al volo sopra e sotto la nuvola, come d'altra parte oggi il Santo Padre avrà diritto di fare. Allora, c'è chi ci scrive, ecco, non si decolla perché i Lloyds, la compagnia assicuratore, ha detto se cade un aereo lì non paghiamo, così spiegato tutto. Altri dicono, va bene, l'ENAC si sganci pure, facciamo volare i nostri aerei, certo che poi se succede, tocchiamo tutto, qualsiasi problema, poi dopo... Presidente Riggio, se c'è ancora, dovessimo staccarci, poi insomma chi assume la responsabilità? Ci stacchiamo è solo perché c'è un dato altrettanto, come dire, convincente di quanto non sia per ora quello attuale, se no non ci stacchiamo. Io ho detto che pur capendo la esigenza non solo dei cittadini ma anche delle compagnie aeree che fanno un servizio, vorrei ricordare, del tutto privato, non hanno contributi, però ho anche aggiunto, poi la Baccaro non l'ha riportato credo per ragioni di spazio, che è meglio dare un incentivo, un indennizzo alle compagnie piuttosto che correre un rischio. Quindi fin quando non avremo la certezza che si può volare in sicurezza, queste nostre aperture sono aperture, come dire, di ricerca, ma non sono ancora assolutamente prodromiche a una decisione. Allora, la Baccaro, la giornalista del Corriere della Sera, che ne ha scritto oggi. Enzo Boschi, l'abbiamo contattata anche perché nei giorni scorsi, insomma, lei è stato tradotto dai titoli così, ma finora questo rischio di tenere a terra, analizzando le nubi, analizzando le ceneri, forse si è un po' esagerato? Possiamo dire così? Forse si è un po' esagerato con tutta questa prudenza? Beh, io guardo le cose dal punto di vista scientifico, anche noi facciamo queste mappe, le facciamo da una decina d'anni e credo che le facciamo meglio anche di quelle di Tolosa, lo dico per il mio amico Vito Riggio, e quindi le forniamo a chi ce le chiede, le facciamo e cerchiamo di analizzare attentamente quello che succede. Secondo me c'è un eccesso di... c'è un po' di confusione ed è assolutamente necessario che ci sia un accordo internazionale su come, che ci siano più strutture che si occupino di questo problema e che agiscano poi con un accordo internazionale in modo da dare un risultato univoco, serio e... Vabbè, però, scusi professore, vuol dire che questi di Eurocontrol anche loro non si divertiranno a tenere mezza paralisi nei cieli europei, insomma? Sì. Io non so cosa abbiano fatto, so che avevano portato, ma forse mi sbaglio perché non è che queste cose vengono dette in maniera molto chiara, almeno per quanto... Per quelle che sono le mie informazioni, avevano portato il livello di ceneri accettabili a 200 microgrammi per metro cubo, cioè accettabili nel senso che si può volare se sì. la concentrazione di ceneri è sotto i 200 microgrammi per metro cubo. Noi nei giorni scorsi non siamo arrivati a 10 microgrammi per metro cubo, almeno nel Mediterraneo. E allora si poteva volare? Si sono bloccati, quindi mi stai dicendo secondo questi dati si poteva volare, perché si è bloccato tutto? Secondo quello che ha detto Eurocontrol, almeno quello che so io, perché poi può darsi che le mie informazioni siano sbagliate, non è che c'è una grande diffusione di informazioni, sembrava che si potesse tranquillamente volare. Se è vero che il rischio nasce da 200 microgrammi per metro cubo in su, avendo difficoltà a misurarle queste ceneri, in ogni caso restando sotto i 10 microgrammi, secondo me si poteva volare. Secondo me si poteva. Che dice Eurocontrol, non secondo quello che... Secondo i dati scientifici. Ma lei, professore, questo vulcano islandese, questo Eyjafjallajökull, sa che noi qua gli vogliamo dare un nome, perché tutti lo chiamano il vulcano islandese. Voi lo chiamate per nome o che dite? Lo chiamiamo per nome, sì. Ah, ce lo dici. Con pronuncia italiana, Eyjafjallajökull. Ah, vabbè, no, va bene, sì, certo. Non le chiedevo la pronuncia islandese, insomma, va benissimo così, però almeno gli date dignità di nome, meno male. Allora, vediamo 800240024, se qualche ascoltatore. Giorgio dalla provincia di Ancona, che ne pensa lei? Buongiorno. Ma io credo che, insomma, sia stato un po' troppo allarmistica la cosa. La mia opinione è che provarsi non sia stato fatto tutto quello che era possibile per limitare i costi, che non sono solo per le compagnie ma per tutti noi, per gli utenti, per chi spedisce la merce, eccetera. Tutti penso che abbiamo avuto dei danni da questa cosa. E allora io mi chiedo, ma è possibile che con la tecnologia che abbiamo oggi non sia possibile mandare un aereo senza pilota alle nostre latitudini per vedere gli effettivi danni che possono creare? Ah, magari la senza pilota vengono fatti i voli con il pilota, tra l'altro Gammino, ci sono le compagnie aeree che mi pare dicano, abbiano detto, per esempio Niki Lauda, leggevo, diceva: beh, io ho volato e dimostro che si può volare senza alcun problema. Quindi di cosa stiamo parlando di questa nube? Gammino. Sì, tenga presente che Lauda vuol volare. La British Airways ha fatto e sta facendo dei voli prova laddove la nuvola va a inficiare i cieli dell'Inghilterra. Noi in Italia, mi fa specie che il presidente Riggio non l'abbia detto chiaramente, noi abbiamo l'Ente Nazionale Assistenza al Volo, l'ENAV, che sta facendo un ottimo lavoro, sta mandando l'aereo radiomisure a monitorare la nuvola, e tutti i dati che prende li passa a quel comitato tecnico istituito in ENAC che giudica se è possibile volare. Dunque il controllo in volo della nuvola c'è. Se vogliamo dire a livello di eccesso di prudenza, torno a ripetere, noi abbiamo visto che questa nuvola si attesta tra 6.000 e 7.000 metri. Dunque tutto ciò che vola sotto e tutto ciò che vola sopra potrebbe volare. Mentre invece forse l'eccesso di prudenza è quello di dire blocchiamo tutto il volo. Potrebbe quantomeno studiare un altro tipo di aereovie o di decolli. Anche oppure, perché, come ha detto Vito Riggio... Voi lo chiamate con il nome finlandese. Islandese. Noi lo chiamiamo il vulcano maledetto perché poteva eruttare da un'altra parte. No, non dica così, se no a me tocca fare questa cosa che non volevo fare, a dire noi stiamo dalla parte del vulcano. Il vulcano fa il vulcano, il vulcano fa il suo lavoro, il vulcano fa la natura, è la natura, insomma, ma questo Boschi magari dopo il traffico ce lo spiegherà, insomma, se bisogna tifare o no per il vulcano. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Ecco qua, siete al corrente, ci scrive Gabriele da Padova, che gira la voce che è tutta una manovra dei militari per nascondere qualcosa. No, Gabriele, non eravamo al corrente, adesso ne siamo al corrente e siamo felici quanto prima di questa bella voce che gira. Allora, intanto Vito Riggio ci ha lasciato, è arrivato il Papa che sta per decollare per Lisbona. Antonio dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, ascolti. Allora, riguardo la nuve che stiamo parlando, ho sentito varie considerazioni, premetto che sono un pilota che lavoro nel settore, faccio addestramento, le considerazioni del Presidente Riggio le ho ascoltate, però farei un passo indietro, nel senso che tutta questa precauzione riguardo la nuvola nasce naturalmente da una storia che ha coinvolto un aereo passeggeri della Japan Airlines successa parecchi anni fa, dove ricordo che questo aeroplano ha avuto un'avaria totale, ricordo che il 747 ha quattro motori, ha avuto un'avaria totale di spegnimento in volo dei quattro motori, perché? Perché questo aeromobile ha penetrato una nube di cenere vulcanica in condizioni di volo strumentale, cioè senza che i piloti potessero vedere fuori ciò che stavano attraversando. E ci sono stati dei problemi. Da allora, insomma, da allora. Da allora è nata questo tipo di. Certo, la preoccupazione. Diciamo, allora, quando sento dire ma vogliamo o non vogliamo, cioè, non dimentichiamo che tutto nasce dal rischio di persone. No, ma certo, ma questo sì, ma nessuno si diverte a tenere a terra gli aerei, appunto, come detto. Però Antonio, qualcuno ha fatto notare che a Catania e anche molti piloti dice voliamo in condizioni di concentrazioni di ceneri per l'Etna che sono costanti, a volte anche e sicuramente superiore a quello che sta succedendo in molte parti d'Europa. Detto che, Antonio, notizia flash dall'agenzia, in Spagna hanno chiuso oggi appena adesso 7 aeroporti, quindi vede, insomma, che in Spagna evidentemente Che purtroppo, poi concludo se vuol far parlare qualche altro ascoltatore, non esistono a tutt'oggi, ma perlomeno non mi risulta che esistano dati oggettivi che possono quantificare la concentrazione di queste polveri, possono quantificare soprattutto per arrivare a capire se la soglia di concentrazione è critica o meno. Oh, questo è interessante, caro Antonio, la ringrazio, della provincia di Bologna. Professor Boschi, allora, ha detto che non esistono dati certi, anche lei ha detto a quanto si sa, a quanto dice Eurocontrol, ma noi abbiamo anche i nostri dati molto validi. Risponda a questo, cioè ci sono dati certi? E secondo, risponda anche a Gammino, insomma, il vulcano maledetto, è maledetto. No. I vulcani non sono maledetti, senza vulcani non ci sarebbe l'atmosfera, non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe niente, quindi non ci sarebbe neanche l'aviazione, quindi i vulcani sono un dono di Dio. Per quanto riguarda le ceneri, la quantità di ceneri, questa è una cosa che dovrebbero fare come i costruttori di aerei, che stabiliscono una volta per tutti quali sono le quantità di ceneri che un motore può reggere, può sopportare. Noi possiamo solo dire che le quantità di ceneri che ci sono in questo momento sono queste e quest'altre, dare dei valori. Ha fatto bene a ricordare il caso dell'Etna, perché nel 2001 ci fu una cosa analoga a quella che sta succedendo in Islanda, appunto. E gestimmo la cosa in maniera col buon senso, insomma ci furono circa 400 voli cancellati, ma non ci fu tutta questa tragedia che sta succedendo adesso. Poi voglio dire solo su Catania, cioè se uno solo deve atterrare Catania, Calabria, Palermo, tutti gli aeroporti furono chiusi per un po', ma insomma si ragionava, oggi non tanto, lei dice. E oggi la Spagna prima apre gli aerei, prima apre gli aeroporti, poi li chiude, alla fine uno non ci crede più, insomma. No, infatti, ma la questione è incredibile, insomma, tra l'altro anche ieri, aeroporti aperti dalle 2. Come se la nube così fosse un fatto. Cioè alle 2 è tutta scomparsa. Ho capito, ma noi a chi ci dobbiamo affidare, professor Boschi? Ecco, e bisognerebbe investire in questo tipo di ricerche, lo dico adesso, non è che voglio fare, però questo tipo di argomenti viene dimenticato se non succedono cose gravi. È successo questa cosa del vulcano, adesso sono tutti interessati. Cioè in questo bisognerebbe tifare il vulcano, in questo bisogna almeno ci fa prendere coscienza di un problema. Ha capito Gammino, altro che maledetto. Sì, ho capito. Il mio maledetto era perché il professor Boschi poteva spiegare la differenza tra un vulcano che adesso sta emettendo cenere, pertanto è pericolosissimo, è un vulcano che emette in prima battuta la lava, che è una cosa differente, sì. Così mi hanno spiegato i tecnici. Ho capito, ma è un vulcano un po' monello questo. Bravo, un po' monello che sta costando fior di soldi alle compagnie aeree, ma anche ai passeggeri. Ecco perché confido nel fatto che a livello globale, cioè a livello IATA, questo porti a far sì che quello che chiede il professor Boschi sia vero, cioè che i vettori comincino a chiedere ai produttori di aerei di andarci a fare degli aerei che possano resistere quantomeno quanto quelli che vanno verso l'Africa e si trovano nelle tempeste di sabbia. Allora, sentiamo Giulio dalla provincia di Venezia che ci dice. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Dica. Niente, volevo solo dire che è vero che porta un disagio enorme questo blocco degli aerei, però vorrei pensare solo un momento, se avesse dei cari, per esempio in Spagna, adesso diciamo in Spagna per non dire un altro luogo, che devono tornare da un viaggio di nozze, tanto per ipotesi, e che mi salgono in aereo, perché comunque gli aerei volano, e a un certo punto cade l'aereo e perdo questi cari. Allora lei dice giusto, cosa meglio pensare io. Allora è chiaro, dice nel dubbio meglio tenere a terra, perché altrimenti quello che di cui si sta discutendo è che anche i dati, si sta dicendo il professor Boschi, insomma non si capisce come mai ci sia stata così tanta prudenza. Però voglio dire, ripeto, la premessa che tutti abbiamo detto è nessuno e anche le autorità sono contente di tenere a terra gli aerei, facendo perdere milioni di euro alle compagnie aeree e facendo perdere anche, e creando molti disagi a milioni di passeggeri, poi i rimborsi, ma immaginate il casino, insomma. Piero, però non date la colpa al vulcano, anzi il nostro vulcano che si chiama Eyjar Fjallar Jökull. Oh, se vogliamo dirlo bene in lingua precisa. Piero da Trieste, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica, lei non lo vuole pronunciare, no, non si cimenta. Il cosa? Il nome? Il vulcano. Il vulcano, sì, ma il vulcano qui in gergo, visto che tutti i colleghi lo chiamano Jökull, ma insomma forse non... Quello vuol dire ghiacciaio, perché sarebbe la parola composta, sarebbe il vulcano che sta sotto il ghiacciaio, Jökull. Esatto, vabbè, esatto, ma è complesso per il nostro vabbè, il vulcano Jökull ha fatto dei danni enormi. Io volevo semplicemente dire una cosa, ho fatto il comandante tutta la vita e... quello che dicono, che dice il professore, quello che dice il presidente, sono cose verissime, giuste, apprezzo il loro lavoro, il loro impegno. Ho sempre lavorato, insomma questa gente li conosco, gli istituti li conosco, hanno sempre lavorato molto molto seriamente, quindi a loro tutto il merito. Però ci sono, adesso non so, il professore vulcanologo ci saprà dire molto meglio quanti vulcani stanno sparando in continuazione ogni giorno in tutto il mondo. Non è una novità. E ci sono poi gli uragani, ci sono le tempeste di sabbia, c'è tutto. Quindi quello che ha bisogno il pilota non è un'espressione politica. Sì. Il pilota ha bisogno delle informazioni più precise per poter decidere. E certo. Non è possibile assolutamente che un istituto politico mi chiuda i cieli. Ma un istituto politico, Piero, adesso il professor Boschi non ha tempo per replicare perché siamo in chiusura. Io dico solo, leggo ancora un'agenzia uscita un secondo fa, gli aeroporti andalusi di Siviglia e Jerez, quello di Badajoz, quelli delle Canarie, delle isole di Tenerife, l'isola di Palma, la Gomera, tutti chiusi. Cosa hanno detto le autorità spagnole? Non sappiamo quando potremo riaprire, dipendiamo dalle previsioni di Eurocontrol. Questa è Eurocontrol a Londra, dipendiamo da loro, dalla loro previsione sulle nubi. Va bene, ringrazio tutti per essere intervenuti con Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, dalla linea Oscar Giannino. Ancora la situazione, l'euro, la Grecia, la situazione finanziaria, economica, europea, questo è il tema del giorno. Potete scriverci bianco o nero, è radio24.it. A domani. Eyjar Fjallar Jökull.